in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra terza o quarta, non ricordo più, rassegna non soltanto europea ma internazionale. Abbiamo deciso di allargare un po' lo sguardo, occupandoci sempre di lo sguardo che viene dall'estero ma anche da più lontano, e soprattutto che non riguarda soltanto la nostra Europa ma in generale tutti i paesi del mondo. Obiettivo ambizioso, lo capisco, però insomma ci proviamo. E inizio da internazionale settimanale, quello, il nuovo numero in edicola da ieri, perché come potete immaginare non, internazionale non è riuscito, ha dato conto, ci sono moltissimi articoli dei bombardamenti che hanno causato 60-80 civili, di cui si dice 30 bambini, del 4 aprile, ma non è riuscito a dare notizia dei bombardamenti decisi da Trump avvenuti tra giovedì e ieri, ora italiana, e quindi c'era come editoriale tradotto un editoriale di Le Monde intitolato Fermare la barbarie in Siria, e le righe finali sono significative perché c'era un augurio che qualcuno facesse qualcosa. E poi è arrivata la decisione di Trump e adesso, come sappiamo, c'è chi la sostiene e chi no. L'attacco era: solo i dettagli possono far comprendere la crudeltà di un attacco con gas neurotossici come quello avvenuto il 4 aprile a Khan Seikhoun in Siria. Secondo una ONG locale sono morte tra 60 e 100 persone, comprese Le Monde, una decina di bambini, c'è chi dice 30. Ma la parte finale era questa: l'attacco del 4 aprile è l'ultimo episodio di una tragedia che si rinnova senza sosta. Senza un'azione determinata di Washington e Mosca che affronti direttamente la questione Assad e il jihadismo, ci saranno altri episodi ugualmente atroci. E sappiamo invece che non c'è stata, sì, c'è stata una decisione, ma solo da parte di Washington, e adesso vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Molto interessante invece, per cambiare continente come paese di sotto osservazione, il Salvador, e anche come continente dal quale proviene l'articolo che vi cito, è un articolo del New York Times, e in questo caso riguarda le miniere del Salvador. Il Salvador, come molti paesi che possiamo ancora chiamare in via di sviluppo, ha alcune industrie antiche proprio e anche molto pericolose come le miniere, che sono ancora attive. Però ora ci dà notizia il New York Times: il Salvador chiude le miniere. La creazione di posti di lavoro e benefici a breve termine hanno convinto molti governi latinoamericani ad accogliere a braccia aperte le aziende minerarie e a mantenere la regolamentazione del settore al minimo. La diffusione indiscriminata delle miniere ha suscitato controversie in tutto il continente ed è il motivo che recentemente ha portato il Salvador a proibire l'estrazione d'oro e altri metalli sul suo territorio. Vi leggo anche qui l'ultima parte, ma trovate tutto su internazionale. Nel 2015 in Brasile 19 persone sono morte quando una diga mineraria è crollata, dicevamo appunto un'industria pericolosa. In Colombia i minatori hanno disboscato enormi tratti di foresta amazzonica. In Argentina alcune comunità indigene rischiano di restare senza acqua a causa dell'estrazione del litio da parte di aziende straniere. Per evitare simili disastri, in futuro servirà la stessa attenta considerazione che ha spinto il Salvador a prendere una posizione decisa contro le miniere. Ma veniamo adesso in Europa, perché comunque abbiamo detto che abbiamo allargato lo sguardo, non distolto lo sguardo dall'Europa. Di Europa si è occupato con un lungo articolo la Tageszeitung, un giornale tedesco, con un reportage, una sorta di reportage analisi intitolata Dove batte il cuore dell'Europa. E il tema è che ogni domenica, da quando si sono intensificati i dettagli sulla Brexit, su come avverrà la Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dal Regno Unito, in Germania si sono anche ravvivati i movimenti europeisti ed è nata questa iniziativa. Ogni domenica un appuntamento in 35 città tedesche e diverse altre città europee per far sentire quello che viene definito il battito dell'Europa. L'obiettivo di queste persone, che in realtà non sono assolutamente un partito, sono un movimento, le guida un avvocato, Daniel Röder, è di veramente dare una controcorrente rispetto all'euroscetticismo. Scrive il Hannes Koch in questo articolo: alle manifestazioni della domenica partecipano molte persone dall'area benestante, indossano lunghi cappotti e occhiali dalla montatura spessa. l'atmosfera è radical chic. La voce ai cittadini, eppure anche qui gli intrusi non mancano. Con il pretesto di voler aiutare, dei militanti di destra hanno tentato di intrufolarsi, ma sono stati mandati via. Un gruppo di giovani liberali è stato invitato a riavvolgere lo striscione del Partito Liberal Democratico che era contrario a questa manifestazione. Lo segnalo perché ci sembra, comunque mi sembra un'iniziativa interessante, come sempre quando le persone si riuniscono spontaneamente per una causa, poi vedremo se appunto queste domeniche di un battito per l'Europa andranno avanti e se magari invece poi fuori dalla Germania anche si estenderanno e se continuerà questo entusiasmo. Restiamo in Germania e questa volta vediamo lo sguardo della Germania sull'Italia, il famoso visti dagli altri. La Süddeutsche Zeitung ha dedicato un articolo a Paolo Gentiloni, il nostro premier, e il titolo a me piace molto, si intitola Governare senza tweet. Sicuramente Matteo Renzi ci aveva abituato a governare appunto con molti tweet e ancora adesso usa molto Twitter, ma naturalmente è in buonissima compagnia perché Trump addirittura è un tweet maniaco, lui comunica quasi solo attraverso i tweet ed è anche stato molto criticato per questo. Quindi su Deutsche Zeitung scrive non è la prima volta che la stampa in realtà aggiungo io, non è la prima volta che la stampa tedesca si compiace di questi modi di Gentiloni così diversi da quelli di Matteo Renzi. E quindi scrive: se si è alla ricerca di una perfetta incarnazione dell'understatement, si arriva velocemente a Paolo Gentiloni, almeno in Italia. E il commento davvero è entusiasta. Noto che comunque la Süddeutsche Zeitung non è un giornale conservatore, quindi è un giornale più vicino alle posizioni di centrosinistra, ma è anche un giornale molto obiettivo, molto serio. Quindi non è, insomma, non è per la sua mai nascosto schieramento per una parte, diciamo per idee di centrosinistra progressiste che fa questo elogio, almeno non credo, secondo me. Quindi scrive: in lui c'è anche la flemma nobile. Governa in modo talmente poco spettacolare e silenzioso che quasi ci si chiede se governi davvero, e qui non so se è veramente un elogio. Matteo Renzi parlava ad alta voce, era sempre presente e brusco, mentre Gentiloni, come sappiamo, a volte la satira se la prende con lui anche per questo, e invece è sempre molto silenzioso, a volte verrebbe quasi voglia di chiedergli di alzare la voce. Comunque, al di là della forma, che spesso è sostanza, secondo me, comunque la Süddeutsche Zeitung parla anche di sostanze e fa l'elenco dei provvedimenti avviati da Gentiloni e dal suo governo. La politica sull'immigrazione in particolare, le correzioni del Jobs Act e della riforma scolastica, l'inizio di un dibattito parlamentare sull'eutanasia e poi, come sappiamo, i vari annunci sui tagli delle tasse alle imprese. Passiamo comunque, a proposito di politica, guardiamo un po' la situazione francese, perché mancano meno di 20 giorni al voto e secondo Le Monde, François Fillon è staccato di 10 punti dalla coppia di testa che è fatta da Marine Le Pen e Emmanuel Macron. E secondo Le Figaro non c'è ancora nulla di deciso, perché ci sono, scusate il gioco di parole, il 40% degli elettori sono indecisi. Ho un po' l'impressione che, viste le debacle dei sondaggisti nelle ultime elezioni, ormai tutti dicano che appunto tutti non abbiano così non si spingono a fare previsioni troppo certe, dicendo che ci sono troppi indecisi. In ogni caso, di questo, oltre a Le Figaro, si sono occupati, naturalmente si stanno occupando, tutti i giornali francesi, dall'Opinion alle Monde, alle Parisienne, che per esempio sostiene che non si deve dare nulla per scontato, perché probabilmente Fillon farà nell'ultima parte della campagna elettorale quello che in America si dice going dirty, cioè fare un gioco sporco con attacchi proprio di tutti i generi ai suoi rivali e soprattutto non a Marine Le Pen, ma a Emmanuel Macron, che potrebbe raccogliere appunto il voto di chi non vuole dare un voto che viene definito estremista e populista al Front National. Un'ultimissima notizia, perché io la trovo sempre veramente un grande segnale di speranza per tutti quando conflitti molto lunghi sembrano in qualche modo risolversi. In questo caso è il conflitto che ha riguardato l'ETA, il gruppo armato basco in Spagna, perché ci è stata annunciata proprio la consegna delle armi e dopo questa consegna delle armi, questo gruppo armato, un po' come era successo con l'IRA in Irlanda, dovrebbe in effetti sciogliersi. E così dopo la guerra civile in Colombia e prima naturalmente quella in Irlanda, forse finalmente almeno in Europa si mette sottoterra per sempre il pretesto, ma anche il mezzo che sono state le armi per queste guerre intestine. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.